Salve, sono Stefania, sono qui da Radio Big World, il popolo di Barabba. Stamattina ero in compagnia sempre con il mio nipotino, io ne parlo spesso, lo adoro. E c'è il mercato a Montevarchi. E lui mi ha detto, dice, nonna, mi compri una magliettina? Boh, vediamo se c'entra stamattina la magliettina. Ne avevo vista una, era dava un po' sul rosa, però era da maschio, cioè nel senso c'erano, no da maschio, c'erano le figurine degli Avenger, quindi era un qualcosa che a lui poteva piacere. Lui l'ha vista rosa, ha detto, per carità, quella è da femmina, io la voglio azzurra. Allora gli ho detto, senti, allora prima di comprare la magliettina ti voglio raccontare una cosa. Alla fine del 1800, gliel'ho presa larga, i bambini in Inghilterra vestivano di rosso sbiadito rosa perché era il simbolo della forza. Poi questo rosso venne un po' sbiadito, se no sembravano troppo violenti e allora attenuarono questo colore e erano vestiti con il grembiulino, il grembiule rosa. Le femmine invece, in onore della Madonna, avevano il vestitino celeste. Mio nipote, non è vero. Certo che è vero, questa è una storia vera, non è una novella. Poi, che cosa è successo? Hanno inventato la Barbie, tu la conosci la Barbie, è la bambolina, eccetera, eccetera, e la Barbie gli hanno dato il vestito rosa. E da quel momento le femminucce si devono vestire di rosa e i maschietti si devono vestire di celeste. Hanno invertito i colori. Ma chi l'ha stabilito? L'ha stabilito una persona che gli si è alzata una mattina e ha detto facciamo così. E tutti, sì, ecco, il popolo di Barabba gli è andato dietro. Quindi pensa quant'è potente, poi questa è una riflessione che faccio qui con voi, come è potente la comunicazione e come noi, popolo qua giù, prendiamo alcune volte per buono i luoghi comuni che da secoli ci vengono tramandati e noi senza, con veramente poca critica e senza chiederci il perché, continuiamo a proseguire con questi luoghi comuni. Il celeste per i maschietti e il rosa per le femminucce, ma questo è un piccolissimo esempio, insomma, però ma per far capire che da questo ci sono poi situazioni probabilmente più complesse e più complicate. E arrivo un attimino al discorso, sempre per i luoghi comuni, comunque, che volevo affrontare oggi. Il tema dei migranti, sapete che è un tema che mi sta molto a cuore, ne ho parlato altre volte a questa radio e oggi in particolare perché è cambiato il governo, sono cambiati i venti e quindi volevo fare una riflessione con voi. Io appartengo all'associazionismo, quindi vengo da un'idea di accoglienza a tutti i costi, assolutamente, per me le persone in difficoltà devono essere accolte, devono essere aiutate, punto. Non ci sono né ma e né se, questo deve essere fatto, però poi mi chiedo, siamo in grado e siamo capaci poi di proseguire questa accoglienza iniziale in qualcosa di intelligente, di educativo, di veramente integrativo e accogliente? Perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non mi risulta che sia così. Se andiamo ad analizzare, ormai questa emergenza non esiste più, è una cosa che si protrae ogni giorno, d'estate sempre di più, lo sapete bene per quali motivi, ma non è più un'emergenza, è una cosa che va gestita in maniera diversa. Invece noi continuiamo a gestirla come un'emergenza e come l'abbiamo gestita la prima volta. Si sono susseguite poi alcune idee, l'accoglienza diffusa, e nel nostro territorio facciamo questo e a differenza di altri territori in Italia, devo dire che il nostro metodo è sicuramente meno criminale. Ecco, voglio metterlo così. Noi accogliamo, diamo a queste persone quello di cui hanno bisogno, gli insegniamo un po' di italiano rudimentale, gli diamo eccetera, eccetera. Però poi, quando è finito il periodo di accoglienza, io non ho capito dove vanno a finire queste persone. Io ancora questo non l'ho capito, perché non mi è stato detto, ma nemmeno da loro stessi. Perché spesso poi ce li ritroviamo a vendere gli accendini, a vendere e a fare una vita da accattoni, eh? Possiamo dirla questa cosa. Questo nei nostri territori, mentre nelle grandi città, noi abbiamo visto Milano, ci fanno vedere, io ho visto Roma personalmente, Caserta, e devo dire che cioè, queste persone vengono prese e inserite in dei lager. Dicevo ai miei amici prima, mancano le camere a gas, ma poi tutto appartiene a un lager. Quindi c'è lo sfruttamento, ci sono dei datori di lavoro disumani, criminali, è dire poco chiamarli così, è dire poco. E quindi sfruttano il lavoro di queste persone, le fanno vivere in degli accampamenti che, perdonate, neanche il mio gatto sarebbe disposto a vivere lì, scapperebbe dopo due secondi. E noi facciamo questo. Però sono laggiù a Caserta, sono laggiù a Roma, se la vedranno loro, sono lassù a Milano. Da noi tutto sommato no. Io credo che l'argomento debba essere affrontato in maniera un attimino più ampia e non solo si accolgono, punto. Vediamo che cosa c'è dietro questa accoglienza, studiamola questa cosa, analizziamola, informiamoci, dopodiché cerchiamo di prendere delle decisioni. Capisco che sono temi talmente complessi e talmente complicati, però è necessario fermarsi e affrontarli nella giusta maniera. Poi, l'altro aspetto, perché devono esistere datori di lavoro che si permettono di fare questo? Perché lo sappiamo che ci sono. Perché questi campi non vengono smantellati? Perché questi criminali non vengono arrestati? Perché queste persone che fanno subire ad altre persone questo tipo di schiavitù che è terribile non vengono denunciati? Perché siamo tutti bravi e tutti buoni, però alcune volte siamo anche parecchio omertosi, perché c'è la paura di questo, la paura di quell'altro. No, queste cose vanno denunciate a qualunque costo, perché l'uomo deve avere la sua dignità. Non ci si può permettere più di sopraffare, che l'uomo sopraffaga un suo simile. Siamo tutti uguali di fronte alla legge. Di fronte alla legge non siamo tutti uguali, dovremmo essere tutti uguali di fronte alla legge, non lo siamo, sappiamo benissimo per quale motivo e tutti sanno i risvolti di questa frase, però siamo poi tutti diversi, ma non diversi di colore, siamo diversi di colore di pelle, di colore di occhi, di carattere, le nostre storie, ognuno ha la sua storia a sé. E di questo noi dobbiamo esserne consapevoli, quindi anche nell'accoglienza questa diversità ne dobbiamo tenere conto. Dobbiamo tenere conto, anche se premetto che nello stare insieme, purtroppo o per fortuna, non lo so, ci devono essere necessariamente delle regole, perché abbiamo visto nel corso della storia dell'umanità che le regole sono quelle che aiutano a vivere in maniera sociale, aiutano a socializzare, a stare insieme. Senza regole l'uomo non è capace di stare insieme, almeno analizzando la storia fino ad oggi, purtroppo è così. Mi sembra di averlo già detta questa cosa qui a Radio Big, però la voglio ripetere perché per me è stata un'apertura mentale parecchio interessante. Nel periodo della Guerra Fredda c'erano i due blocchi, c'era il blocco dell'America e il blocco della Russia, c'era il muro di Berlino che teneva questi, si facevano la guerra fredda con il pensiero, no? Però guai se sgarravano, perché c'era il periodo della guerra vera, quindi c'erano questi due che tenevano bene o male insieme il mondo. C'era qualche guerra in qua e in là, però erano talmente lontane, ma era proprio una guerriglia qui, una guerriglia là, probabilmente per la droga, per queste cose qui. Quindi erano guerriglie, insomma, guerrette. Una volta caduto il muro di Berlino, dove non c'erano più questi due blocchi a controllare il mondo, si è scatenato un putiferio. Ci sono oggi 42 guerre nel mondo, tra guerre e conflitti. Cioè ognuno gli pare di fare quello che gli pare di fare e quindi arriva questo caos. Quindi la mia domanda è, allora abbiamo proprio bisogno di essere comandati con delle regole ferree perché l'uomo non è capace di autogestirsi? Questa è la domanda che mi faccio e che vi faccio a tutti voi. Grazie e alla prossima.